Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'ombra delle scommesse sul portiere dell'Udinese Okoye, indagato insieme a un ristoratore della città, inchiesta scattata da una segnalazione della Sisal. Sempre più supermercati a Trieste, 68 di medie dimensioni, molti di più i piccoli, soprattutto in centro e nella prima periferia. Il meteo promette un sabato ancora soleggiato, poi in arrivo una perturbazione che non dovrebbe però portare precipitazioni. A San Vito al Tagliamento il banco d'inciampo racconta cosa significò per i giovani ebrei vedersi negati scuola e studio dalle leggi razziali. Un concerto tutto per ciclisti, 5.000 quello che Giovannotti terrà per il 30° del No Borders a Fusine a luglio, ingresso vietato anche ai pedoni. Gli inventori dell'alpinismo, se ne parla a Spilimbergo ad Appuntamenti con la Storia con Andrea Zanini dell'Università di Udine. 12:31 minuti, buongiorno da Andrei Marušić e Rita Micoli. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo su una possibile ammonizione pilotata per il portiere dell'Udinese Okoye durante il match Lazio-Udinese. Nel registro degli indagati i nomi dell'estremo difensore e di un ristoratore della città. Un episodio di gioco normale come un'ammonizione ad un portiere per perdita di tempo che diventa particolare dopo l'apertura di un fascicolo da parte della Procura di Udine. Lo riporta il Messaggero Veneto che rivela l'indagine in corso per un flusso di scommesse anomale riferite alla partita Lazio-Udinese dello scorso campionato a marzo, vinta dai friulani per 2-1. Indagati per truffa il portiere Maduka Okoye, 25 anni, attualmente infortunato, e Diego Giordano, titolare di una pizzeria in via Poscolle a Udine, rappresentato dal legale Vincenzo 5. L'indagine è partita dopo una segnalazione alla SNAI per una serie di scommesse per importi comunque non rilevanti. Si aggirerebbero intorno ai 1.000 euro che pare siano riferiti all'ammonizione di Okoye. La dinamica dell'episodio escluderebbe qualcosa di concordato preventivamente, ma le indagini, affidate alla questura di Udine, dovranno chiarire i rapporti intercorsi tra il calciatore e l'imprenditore prima della partita, da accertare anche se il portiere abbia scommesso sulla gara. In quel caso si costituirebbe l'illecito e, come avvenuto in passato per Tonali e Fagioli, ci sarebbe una squalifica pesante. Non rischierebbe nulla l'Udinese se si accertasse il coinvolgimento del portiere nella vicenda. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ancora incertezza sulla data di ripartenza del tram di Opicina, restano alcuni sopralluoghi da completare, le ipotesi vanno dall'inizio alla metà di febbraio. Dopo vari rinvii non c'è ancora una data per la ripartenza del tram di Opicina. In questi giorni erano fissate le ultime verifiche da parte di ANSFISA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. Verifiche relative non alla linea ma alle vetture, assieme a questioni amministrative relative al rilascio delle patenti per tranvieri e manutentori. Il periodo minimo di preesercizio è stato infatti portato a termine e i primi viaggi hanno dato esito positivo. Nessuna criticità è stata rilevata lungo la linea. Restavano da montare i freni a pattino prescritti dall'Agenzia Nazionale. Completata insomma la parte in capo al Comune, la palla è ora in mano a Trieste Trasporti, che però sceglie di non rilasciare dichiarazioni e non azzarda date per la ripresa dell'esercizio a pieno regime. Un'ipotesi per la ripartenza del servizio potrebbe essere il 1° febbraio, ma si parla anche della metà del mese. Di certo un nuovo sopralluogo è stato fissato per lunedì, in base all'esito potrebbero arrivare indicazioni più precise. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'avvio dei lavori sulla superstrada H4 in Slovenia, che collega direttamente al territorio italiano tramite il valico autostradale goriziano di Sant'Andrea, rischiano di generare gravi disagi al sistema logistico e alla viabilità regionale del Friuli Venezia Giulia e di tutta Europa, con conseguenze economiche che rischiano di diventare irreversibili. A dirlo l'eurodeputato di Fratelli d'Italia e CR Alessandro Ciriani, commentando la sua interrogazione presentata alla Commissione europea con la richiesta di garantire la libera circolazione e sollecitare la Slovenia ad assicurare il regolare traffico transfrontaliero in merito alla gestione dei flussi durante i lavori sulla H4, lavori che, aggiunge Ciriani, rischiano di compromettere l'interporto di Gorizia, noto strategico per il commercio tra Europa orientale e occidentale. E il Ministero della Difesa ha fatto sapere oggi che oltre 50 tonnellate tonnellate di aiuti umanitari sono appena partiti per Gaza dal porto di Monfalcone. La nave è diretta a Cipro con a bordo beni di prima necessità raccolti dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Dopo l'arrivo al porto di Limassol a Cipro, il materiale verrà successivamente trasferito a Gaza. 68 supermercati di medie dimensioni a Trieste, molti di più sono invece quelli piccoli che si trovano soprattutto in centro e nella prima periferia. Strutture che non fanno che aumentare, abbiamo cercato di capire il fenomeno. Inaugurato pochi giorni fa in Viale 20 Settembre a Trieste, un nuovo supermercato si trova a pochi passi da altre due strutture simili, una anche appartenente alla stessa catena. Facendo poi altre poche centinaia di metri, tra Via Battisti e Via San Francesco, si contano altri supermercati. Così nelle zone più centrali e turistiche non è diverso. Nella prima periferia, pensiamo al rione di Barriera Vecchia, anche qui contiamo 7 supermercati a stretta distanza l'uno dall'altro. La percezione diffusa è che in ogni spazio vuoto lasciato dal commercio si insedi una attività alimentare. Andando a vedere i dati dell'IRES, che però limitano la ricerca a strutture più grandi con superficie superiore ai 400 metri quadrati, Trieste conta meno supermercati pro capite rispetto ad altre città della regione, ma appunto il dato non tiene conto della dimensione spesso piccola che caratterizza la città di Trieste. Siamo con l'assessore alle politiche economiche e vice sindaco Serena Tonella. Tanti supermercati in questa città, perché? Io credo che se si decide di fare degli investimenti vuol dire che la domanda c'è e quindi anche l'offerta si adegua. Avere anche delle strutture piccole e diffuse credo sia un vantaggio per i cittadini stessi, perché è un servizio di prossimità che credo sia appunto anche una necessità dei cittadini stessi. Quindi ben vengano gli investimenti e quindi anche il servizio diffuso. Trieste, Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora una notizia di viabilità: resta chiusa la A23 tra lo svincolo di Pontebba e quello di Amaro in direzione Udine a causa delle operazioni di bonifica in seguito all'incendio di un camion frigo carico di carne. Il tiro, ha preso fuoco all'interno della galleria autostradale di Dogna in direzione sud. L'allarme è scattato poco prima delle 6 di stamane. Sul posto 3 squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Tarvisio, Pontebba e Gemona, che hanno domato le fiamme e provveduto alle operazioni di bonifica. Il conducente del tir ha abbandonato il veicolo illeso, mentre la cabina dell'auto articolato è andata completamente distrutta dalle fiamme. Ancora da accertare le cause che hanno scatenato il rogo, chiusa la galleria in direzione sud e temporaneamente il tratto tra lo svincolo di Pontebba e quello di Amaro. I disagi al traffico hanno creato lunghe code in uscita a Pontebba. Nel frattempo il camion è stato rimosso e gli operatori di Autostrade per l'Italia stanno provvedendo al ripristino del manto stradale. È stato trovato dai soccorritori in fondo ad un canalone durante la notte il 40enne di Reana del Royale, del quale si sono perse le tracce nel pomeriggio di ieri nella zona del Gran Monte, non lontano dal passo Tanamea in provincia di Udine. L'escursionista è ruzzolato per un centinaio di metri, ha riportato diverse fratture, ma non è in pericolo di vita. È stato preso in cura in codice giallo all'ospedale di Udine. L'uomo è partito nella mattinata di ieri per un'escursione tra Passo Tanamea e l'anello del Monte Maggiore. A dare l'allarme in tarda serata è stata la fidanzata, che non ha visto rientrare il compagno. L'operazione di ricerca e recupero, durata 11 ore, è risultata da subito impegnativa per la conformazione del terreno, le basse temperature, scese anche a meno 10, nonché per il buio. È stato coinvolto personale dei vigili del fuoco, del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, del soccorso alpino CNAS e dell'esercito. Quest'ultimo è intervenuto con un elicottero adibito alla ricerca notturna, partito da Cervia in sostituzione dell'elicottero sanitario, che non poteva operare in condizioni di scarsa visibilità. Ora il meteo: il cielo è sereno sulla regione, variabile in qualche località montana, le temperature delle 11 a Trieste 5,5 gradi, vento da est nord-est bora 36 km orari, a Udine 7 gradi, a Gorizia e a Pordenone 6, a Tolmezzo e a Forni di Sopra 2 gradi, sul Piancavallo 1 grado, a Tarvisio 0, a Sappada meno 3, sul monte Zoncolan meno 2 gradi, sul monte Lussari meno 6 gradi, sulla costa Grado e Lignano 6 gradi. e ci attende nuovamente un fine settimana soleggiato e freddo con qualche perturbazione. Ce lo racconta nel dettaglio il previsore dell'ARPA, Francesco Sioni. Domani sulla regione governerà un anticiclone che porterà ancora correnti secche da est, motivo per cui la giornata di domani sarà molto simile a quella di oggi, con cielo sereno su tutta la regione, soffierà bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, con raffiche che potranno essere sul Carso e Trieste sostenute o al più forti, con l'avvicinamento all'anticiclone e anche rialzo dello zero termico che andrà sopra i 2000 metri. Per quanto riguarda domenica invece l'avvicinamento di una depressione porterà un generale aumento della nuvolosità sulla regione, quindi nuvolosità variabile e progressivamente più consistente durante il corso della giornata, in particolare verso la costa e sulla pianura, meno invece verso il Tarvisiano. La bora si farà ancora sentire al mattino, poi sarà in diminuzione dal pomeriggio, ancora zero termico attorno ai 2000 metri circa. Tuttavia domenica non sono previste piogge o precipitazioni di alcun tipo. La tendenza sul lungo termine non vede particolari depressioni che potrebbero portare appunto a piogge o precipitazioni consistenti sulla regione. Come le pietre chiamate a ricordare la deportazione dei cittadini nei campi di concentramento, così il banco di inciampo a San Vito al Tagliamento racconta cosa abbia significato per gli studenti della comunità ebraica vedersi negare all'improvviso la possibilità di andare a scuola e di proseguire gli studi. Lo ha chiamato banco d'inciampo, è un vero e proprio banco di scuola in legno costruito sul modello che si usava negli anni 30 in Italia. Ed è d'inciampo come le pietre che riportano nelle strade i nomi degli ebrei deportati e uccisi nei campi di concentramento, perché l'ideatore, Luigi Mastroianni di San Vito al Tagliamento, vuole ricordare agli studenti di oggi il momento in cui il fascismo impedì agli ebrei di frequentare le scuole. Era il 5 settembre del 1938, alcuni studenti, apprendendo la notizia, all'inizio furono perfino contenti di non fare più lezione, come Bruna Levi, una ragazza di origine ebraica di Trieste, alunna modello che studiava il classico e figura che la figlia, Luisella Schreiber-Segre, ha raccontato in due libri. Significava essere da sola a casa, non poter più andare a giocare a tennis perché era stata cacciata anche dal club del tennis, non poter più fare ginnastica, non poter più neanche ascoltare la radio perché erano stati messi sigilli sulla sua radio. Una delusione fortissima anche perché Bruna Levi, come tanti altri, credeva nel regime. Mia madre era assolutamente una ammiratrice sfegatata di Mussolini, aveva vinto un primo premio, un viaggio a Roma per un tema su Mussolini. È stato un colpo grandissimo per la mamma proprio vedere che il suo idolo, perché era un idolo per lei, la cacciava dalla scuola, la discriminava, la rendeva diversa. A ottobre di quell'anno però fu concesso alle comunità ebraiche di aprire delle scuole destinate solo a loro. Per lei fu un cambio di vita, ma anche un ritorno all'istruzione. Riuscì a fare due anni in uno, si presentò alla maturità e ottenne un ottimo voto. L'università però, in quanto ebrea, non la poté fare. Quando degli ebrei le persecuzioni si intensificarono, la famiglia riparò in Svizzera con un viaggio pericoloso. Sarebbe tornata a Trieste diversi anni dopo. La comunità ebraica della città nel frattempo, che contava 6.000 membri, era stata decimata. Dario Ronzoni, TG Friuli Venezia Giulia. Siglata la collaborazione tra la Fondazione Attilio Maseri di Persesereano e il Distretto del Commercio Friuli Orientale per valorizzare e potenziare le peculiarità del territorio e favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di studenti e laureati dell'Università di Udine. L'accordo triennale è stato firmato dai presidenti dei due enti, Cristiana Compagno e Beppino Govetto. L'obiettivo dell'accordo è arricchire l'offerta di turismo culturale e territoriale grazie al coinvolgimento delle imprese del distretto. L'accordo punta anche a valorizzare della villa come luogo di incontri culturali e scientifici e a promuovere percorsi formativi dedicati. Adesso parliamo di sport e di Tour de France. Il Tour de France sulle strade della regione sembrava quasi un'ipotesi da fantaciclismo, invece nelle ultime ore sta prendendo quota l'idea dell'omaggio della più nota corsa a tappe ciclistica al mondo al primo italiano a vincerla, Ottavio Bottecchia. Vincitore del Tour del 1924 e del 1925 e poi scomparso in circostanze mai chiarite nel 1927. Il tutto potrebbe diventare realtà grazie all'interessamento da parte della vicina Slovenia, ormai patria platea dei grandi ciclisti a ospitare la grande partenza del Tour nel 2028 o nel 2029. Lo ha reso noto giorni fa la pagina web della TV pubblica slovena, voce poi confermata dal Ministero dell'Economia, Turismo e dello Sport di Lubiana, dove è prevista a breve una prima discussione. Si punta ad uno sconfinamento dalla Slovenia sulle strade che furono di Bottecchia, omaggiando così il grande campione ad un secolo dalla sua scomparsa. A confermarlo anche Paolo Urbani, project manager delle tappe del Giro in Regione, che porterà l'idea all'attenzione di Regione e dei possibili sponsor. Il prossimo 26 luglio Lorenzo Giovanotti sarà protagonista di un concerto al No Borders Music Festival che celebra il suo 30° anniversario ai Laghi di Fusine. Alla chiusura del tour dei Palagiova sarà il primo concerto riservato esclusivamente a 5.000 ciclisti. Come tutti i concerti del No Borders, l'appuntamento è fissato alle 14 e per questa occasione il pubblico potrà raggiungere la location solo in bicicletta, scegliendo tra itinerari semplici, intermedi o articolati proposti dagli organizzatori. Nessun accesso sarà consentito ad auto, moto o pedoni. Siamo agli spettacoli. Dopo il debutto nazionale a Lastra Assinia in provincia di Firenze, approda al Teatro Bobbio di Trieste L'assaggiatrice di Hitler, una produzione teatrale che porta in scena l'omonimo romanzo di Rosella Postorino, vincitore del premio Campiello nel 2018 e del Prix Jean Monnet nel 2019. Le protagoniste in quello che è un viaggio nella coscienza umana ai tempi del nazismo sono Silvia Gallerano e Alessia Giangiuliani, dirette da Sandro Mabellini. Il regista ci racconta di come la vicenda sia tratta da una storia incredibilmente vera che si svolgeva nel 1943 in un villaggio della Prussia orientale vicino al quartier generale nazista dove soggiornava regolarmente Adolf Hitler. Rosella Postorino, l'autrice del romanzo, si è ispirata alla storia di Margot Walker, che era una delle assaggiatrici di Hitler. Poi, siccome Rosella non è mai riuscita a intervistare questa signora, purtroppo poi è morta perché aveva 96 anni, si è in qualche modo immessa in questo viaggio dentro la storia, immaginando di essere lei una delle assaggiatrici. E come viene trasposta la storia sul palcoscenico? Come si svolge lo spettacolo? Per motivi anche di fattibilità dello spettacolo, però col senno di poi avrei fatto la stessa scelta. E io ho scelto di far interpretare Rosa, la protagonista, da due attrici. E non solo Rosa, ma tutti i personaggi della storia, del romanzo. Si scambiano continuamente l'identità. A volte sono Rosa, a volte sono le altre assaggiatrici, a volte diventano una SS nazista, a volte diventano il cuoco. Però in questo fluire di identità, praticamente il punto di vista è sempre il punto di vista di Rosa, o comunque un punto di vista femminile in cui si parla molto anche delle figure maschili che di fatto non ci sono. In tutto ciò, cosa mangiava il Führer? Il Führer, sembra assurda questa cosa, però era vegetariano e anzi a un certo punto viene raccontato dal cuoco che prende lui di fronte, se lui aveva a che fare, andava a visitare un macello, era disgustato perché non capiva come gli esseri umani potessero avere questo trattamento nei confronti degli animali. Qual è il vero focus dello spettacolo, della storia? Che la vita continua anche in un ambito di terrore. Gli esseri umani hanno una capacità di adattamento e quindi questa storia racconta molto come queste donne riescono ad adattarsi e a sopravvivere malgrado la morte che è lì presente, però nonostante questo riescono a scoprire anche rapporti, amicizie, desiderio, tutta una serie di cose che fanno parte comunque dell'essere umano e della vitalità dell'essere umano. Dal 2001 ha partecipato a 8 spedizioni di ricerca in Antartide per studiare i sedimenti marini e a Buongiorno Regione ha raccontato l'esperienza che ha segnato la sua carriera professionale. Lei è Esther Colizza, docente all'Università di Trieste, direttrice del Museo dell'Antartide a Trieste, protagonista dell'incontro che si terrà questo pomeriggio alle 17.30 all'oratorio Pio XII di San Giovanni. Il continente coperto di ghiaccio all'estremo sud del globo ha attratto i più audaci esploratori e scienziati. Tra loro, nei tempi più recenti, c'è anche la triestina Esther Colizza, docente dell'Università di Trieste e direttrice del Museo dell'Antartide, che tra i ghiacci del sud ci è andata 8 volte. È straordinario perché è il forse più grande laboratorio naturale dove i ricercatori, gli scienziati possono sperimentare e studiare questo ambiente che è spettacolare, che è unico nel suo genere ed è proprio una riserva naturale mantenuta tale grazie a degli accordi internazionali dove appunto si definisce che nell'Antartide si va per ora a fare scienza. Le spedizioni di Ester Corizza sono state fatte sulle navi da ricerca, una convivenza fatta in un contesto climatico estremo e in uno spazio molto ristretto da condividere con i colleghi. Devo rispettare gli altri, ma anche non posso pretendere cose che sono impossibili. Dopo un mese che sono su una nave da ricerca, non posso pensare di avere ancora della verdura fresca, verde, fresca. Perché se lo chiedo e mi infastidisco se non c'è, vuol dire che ho sbagliato lavoro, ho sbagliato posto. Ci si deve sostenere a vicenda durante la spedizione per evitare piccole forme di depressione, dovute alla lontananza della famiglia, con cui oggi però è più facile mantenersi in contatto. Spazio ai giovani, non credo tornerò più in Antartide, commenta Ester Corizza, che il continente bianco ce l'ha ormai nel cuore. Al di là dell'esperienza umana, ho avuto la possibilità di fare il mio lavoro che amo in un posto splendido. Conoscere una scienza molto ampia, multidisciplinare, di entrare in contatto con tante persone, in questi scambi poi si creano nuovi progetti, si va in giro per il mondo a conoscere altre realtà e questo per me è stato impagabile. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Appuntamenti con la storia 2024 riparte stasera all'Auditorium Olindo Contardo di Spilimbergo alle 18.30 con Andrea Zanini, ordinario di Storia dell'Europa all'Università di Udine, sul tema Scienziati o Alpigiani? Chi ha inventato l'alpinismo? Il titolo della serata si ispira al suo libro Controstoria dell'alpinismo, pubblicata dalla Terza. Zanini ci spiega perché è nata la necessità di parlare di coloro che sono stati veramente i primi ad esplorare le vette. A questo libro è un tentativo di rileggere la nascita dell'alpinismo, la storia del primissimo alpinismo di fronte, diciamo, a una visione tradizionale secondo la quale sarebbero stati gli scienziati e gli uomini di cultura, i cittadini a inventare la passione per salire le alte vette e la tesi o provocatoria, bonariamente provocatoria che si vuole avanzare è quella che in realtà l'alpinismo era diffuso da molto più tempo prima della fine del Settecento tra le popolazioni contadine alpine. La curiosità, l'esigenza di esplorare è sempre esistita, insomma, soprattutto in coloro che la montagna la abitano. Esattamente, proprio così. Non si capisce perché è il desiderio della scoperta, di vedere cosa c'è sulla cima della montagna sopra la propria casa, non possa essere stato un'attitudine diffusa da sempre probabilmente tra le popolazioni alpine. Il libro tenta di ricostruire alcune decine di queste prime salite, di cui rimangono magari pochissime esili tracce documentarie, proprio per testimoniare questo alpinismo prima dell'alpinismo. Beh, in qualche modo fa riemergere le imprese più vere, più antiche, quelle dei signor Nessuno, che avevano poca audience, poco seguito. Questo è un altro punto importante, perché l'alpinismo, quello diciamo ufficiale, è ufficiale nel momento in cui si fa conoscere, perché i circuiti di comunicazione, i giornali, dopo dalla metà dell'Ottocento, per esempio le pubblicazioni di club alpini, per divulgare la notizia delle prime salite. E molto spesso in queste prime salite si viene a sapere che i primi alpinisti, che magari erano cittadini o persone colte, trovavano sulle cime, naturalmente le cime più facili, tracce di passaggio, un ometto di pietra o qualche altra traccia. Evidentemente c'era stato qualcuno che non si era curato o non ha avuto la possibilità di far conoscere quella salita. Prima di chiudere ancora alcuni appuntamenti, a Udine alla Libreria Moderna e Trarte, Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, invitano alla presentazione del volume Storia del Colonialismo Italiano, Politica, Cultura e Memoria dall'età liberale ai nostri giorni di Valeria De Plano e Alessandro Pessa. Alle 18 sarà anche presentato il podcast Memoria dall'Impero di Luca Giuliani e Flavio Massarutto. A Colloredo di Monte Albano, presentazione del libro fotografico Uno scoglio chiamato Lampedusa di Sonia Fattori e Marta Danielussi nel castello alle 20.45. alla libreria UBIC di Galleria Tergesteo alle 17. La presentazione del libro Martina va al concerto di Nicoletta Costa, nato dalla sinergia tra la fumettista per bambini e l'associazione Mare Vivo Friuli Venezia Giulia. Nella sala di lettura della libreria Minerva di via San Nicolò a Trieste verrà presentato il libro di Ramona Daniela Fusle, Favole, alle 17.30. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Roberto Cavallari e Walter Vidonis. In redazione ha collaborato Cristina Polselli, da Andrei Marusci c'è Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.